Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Roma, 24 giugno 2011. Perde al videopoker e aggredisce il titolare del bar. Quanti di voi fumano? Va bene, non c'è bisogno che alziate la mano, lo so che siete tanti. E tu? Tu che invece il viziaccio non ce l'hai? Di sicuro comunque la mattina ci passi lo stesso da quel bar tabacchi all'angolo. Quello dove prima di riuscire a pagare il caffè, la brioche, le sigarette, ti tocca fare a sportellate con la massaia che gioca al superenalotto, con l'operaio che cerca un gratta e vinci qualsiasi, con lo studentello che prova ad azzeccare i risultati delle partite. Stanno lì, tutti in fila per comprarsi un pezzo di sogno a buon mercato. Tu li guardi e non capisci. Poi vedi il vecchio, e ti accorgi che lui forse è messo pure peggio. Non è vecchio d'età, avrà al massimo 50 anni. È vecchio di troppo sole, sale e vento contrario. Un pescatore forse, o un contadino, o la reincarnazione di Hemingway. Un Hemingway in versione capitolina, piazzato su un trespolo nero e sudicio, in un angolo altrettanto sudicio, buio ma non troppo, lontano ma non troppo dal viavai adrenalinico dei clienti del mattino. Sta osservando il totem scintillante come si osserverebbe un figlio adolescente, immaginando che quanto manca ai propri pensieri e alla propria vita si nasconda lì dentro, dietro quello sguardo digitale fatto di fiori, frutti, stelline e pacchi regalo. Preme un bottone, solleva la testa, la scuote, infila un altro gettone, e poi un altro ancora. Un compulsivo. In Italia quelli come lui, quelli che per un brivido in più saltano la cena, dimenticano in macchina il loro bambino o saccheggiano la pensione della moglie, sono 700.000. Ma questo lo scoprirai soltanto più tardi. L'azzardo non fa per te. Sono le 8 di mattina e a te interessano solo il tuo espresso, il tuo cornetto saturo di burro e la tua dose quotidiana di nicotina. Per pagarli ci metti 10 minuti. Il magrebino davanti a te monopolizza il bancone perché dice che stanotte ha sognato i numeri buoni. Butti un altro sguardo oltre la tua spalla, verso l'angolo buio. Il vecchio è ancora lì, immobile, catatonico. A occhio e croce si sarà giocato già 50 delle tue colazioni. La sua voce somiglia al sussurro di un malato terminale. Non si vince mai, non si vince mai, non si vince mai. Allora perché non ti schiodi da lì, vecchio rincoglionito, pensi, mentre finalmente abbandoni il locale e fai brillare la prima Lucky del mattino. Il quartiere è uno sputo di cemento e storia in mezzo ad altri sputi, più piccoli o più grandi, non importa. Se li metti insieme puoi chiamarli Roma, se li guardi uno per uno scopri che sono soltanto palcoscenici. Ora tocca a te attraversare il tuo quotidiano palcoscenico di delirio. Lo fai con la noncuranza e lo stile che ti appartengono, che hai imparato a dosare in anni di lavoro. Un giorno via l'altro, con l'auto reverse, senza mai proiettarti verso il futuro. In un attimo è sera e ti ritrovi a pensare al vecchio dei videopoker. Chissà se è ancora lì. E allora decidi di riattraversare la città, di correre da lui per dirgli che in fondo le vostre vite non sono così distanti. Per lui il sogno di un'esistenza migliore si nasconde dietro il tintinnio dei tasti hold e release. Per te si nasconde tra le pieghe di un open space asettico e ipocrita, dove costruirti una qualche carriera del cazzo. Nessuno di voi due al momento ha centrato l'obiettivo, ma entrambi a quell'obiettivo avete sacrificato relazioni, soldi, coronarie. Lungo la Salaria costeggia una serie infinita di edifici popolari scuri e formicolanti come occhi pesti. Piove adesso, e il viale è praticamente deserto. Anche il bar sta chiudendo. Vedi il titolare da lontano, piegato nei suoi 130 kg mentre sbuffa e serra il lucchetto intorno alla serranda. Magari il vecchio è rimasto chiuso dentro, pensi. Invece no, deve essere uscito da poco comunque, perché sta seduto sui gradini della chiesa di fronte. Adesso però sorride, e a te sembra un po' strano che lo faccia. Che cazzo c'hai da sorridere alla fine di un giorno così? Un tizio che ha tutta l'aria di tenere qualche rotella fuori posto. Ti viene in mente Mark Chapman, l'assassino di John Lennon. Stessa scena. E non fai neanche in tempo a mandare in archivio quella stramba associazione di idee che vedi il barista caracollare in direzione del vecchio, e il vecchio che si alza come per salutarlo. Poi senti il rumore. Inconfondibile. È dagli anni 70 che le serie TV ti hanno insegnato a riconoscerlo tra mille. Quello che succede dopo lo leggerai sui giornali domattina, quando dovrai rassegnarti a cercare un altro bar tabacchi dove fare tappa. Perché ora sei stordito. Le sirene, le urle, lo sciamare dei guardoni in strada, tutto diventa un rumore di fondo indistinto. Tutto, tranne la cantilena del vecchio, che conserva la stessa faccia di sale e si rivolge a te con lo stesso sussurro. Non si vince mai, non si vince mai, non si vince mai. Gianluca Ferraris, in libreria con Gioco Sporco, Dalai Editore, 234 pagine, 17 euro. Per riascoltare e scaricare questa puntata di Storiacce d'autore, www.radio24.it, nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sul blog di Storiacce e sulla pagina Facebook di Storiacce. Ciao a tutti, al prossimo weekend.